Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, eccoci qui finalmente insieme per festeggiare Pasquetta. Un saluto da Nicoletta Carbone. Oggi non potevamo non fare una puntata golosa. Dall'uovo di Pasqua è uscito un pulcino di gesso arancione col becco turchino. Ha detto: vado, mi metto in viaggio e porto a tutti un grande messaggio. E volteggiando di qua e di là, attraversando paesi e città, ha scritto sui muri, nel cielo e per terra: viva la pace, abbasso la guerra. E a proposito di uovo di Pasqua, abbiamo preso il spunto dalla filastrocca di Gianni Rodari e nella giornata di oggi direi che l'indicazione di questo proverbio ci suona bene, ci fa venire l'acquolina in bocca, perché i cocci sono di cioccolato, il cibo degli dèi che manda in estasi il palato degli uomini. Allora oggi ho invitato a mangiare un pezzo di uovo di cioccolato insieme a noi la dottoressa Laura Rossi. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per l'invito, goloso. Goloso, ricercatrice nutrizionista dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, INRAN. Sì. Dottoressa, già che facciamo un pezzo di pasquette insieme, mi dica che cioccolato posso offrirle. Se vuole quello al latte, abbiamo quello nocciolato, abbiamo quello fondente, scelga lei. Allora, per me, diciamo, secondo me è il gusto che ci deve guidare in queste scelte, perché il cioccolato è un cibo assolutamente piacevole, quindi io preferisco il fondente, ma non ci sono delle peculiarità nutrizionali che ci guidano nella scelta, diciamo, è solamente il gusto personale che ci spinge. Se a uno gli piace di più il latte, mangia quello al latte; se gli piace di più quello con le nocciole, mangia quello con le nocciole, ma insomma, ecco, dipende assolutamente dal gusto personale. Quindi non è anche, dato che molte ricerche si sono concentrate sul cioccolato fondente, si pensa che sia il cioccolato fondente quello migliore, più buono anche dal punto di vista della salute. Il cioccolato fondente ha delle caratteristiche diverse dagli altri, è fatto essenzialmente di pasta di cacao, burro di cacao e zucchero, con una proporzione di pasta di cacao superiore rispetto al cioccolato al latte o al cioccolato bianco o al cioccolato con le nocciole. Siccome nella pasta di cacao si raccolgono tutte queste nuove molecole che piacciono molto, protettive per la salute, antiossidanti, sì, eccetera, la percezione generale è che nel cioccolato fondente ce ne siano di più. In effetti ce ne sono di più, ma non ce ne sono drammaticamente di più da giustificarne una scelta sulla base di una accezione salutistica specifica. Allora, buono, ricco di fascino, no? È un alimento molto interessante, arriva da lontano e questo sicuramente contribuisce a regalargli anche quest'alone un po' di mistero. È generoso, come lei ha anticipato, e anche perché ricco dal punto di vista nutrizionale, ma anche ricco di quelle sostanze a cui faceva riferimento lei, che piacciono molto ai ricercatori, che hanno sempre dei nomi strani, che ogni tanto leggiamo anche sui giornali, come capace di avere un'azione terapeutica particolare. Sì, le ricerche un pochino più recenti appunto sul cioccolato hanno mostrato, il cioccolato è una fonte, i semi di cacao contengono questi antiossidanti, queste antocianine, questi composti con i nomi complicati. È vero che ce ne sono nel cioccolato, ce ne sono e se ne ritrovano, è anche vero che sono presenti in piccolissime quantità, quindi per avere, diciamo, questi composti hanno un effetto sicuramente salutistico, sono quelli che sono presenti nella frutta e nella verdura, sono le ragioni per le quali noi diciamo che dobbiamo mangiare frutta e verdura. Ce ne sono anche nel cioccolato, però ce ne sono in piccolissime quantità, tanto è vero che per mostrare un effetto, diciamo, sulla salute bisogna mangiare grandi quantità di cioccolato, o addirittura bisogna modificare la composizione del cioccolato per aggiungerne proprio alla matrice alimentare, quindi è una cosa un po' diversa, certo, rispetto al cibo di origine. È un alimento energetico che ci fa subito sentire forti, pronti. Per due ragioni, è un alimento che ci dà la carica, perché ha molte calorie, quindi è un alimento fortemente energetico, adatto agli sportivi, a chi fa molta attività fisica e via discorrendo, ma è anche un alimento cosiddetto nervino, cioè rientra nella stessa categoria del tè e del caffè, avendo al suo interno queste sostanze che sono in grado di stimolare il nostro sistema nervoso, e queste sostanze serotoninergiche, un'altra parola difficile, cioè ci aiuta, quando diciamo che è la pillola del buon umore, che ci aiuta a stare bene, non è solo una sensazione, è proprio così, nel senso che ha questo effetto, diciamo, stimolatore del nostro sistema nervoso centrale, per il quale poi ci sentiamo stiamo meglio. Quindi non è solamente un effetto placebo, ma è un effetto vero, è un effetto di stimolo del sistema nervoso centrale. Ecco da dove deriva la carica che ci dà il cioccolato. Dottoressa, e ne basta poco. Un quadrettino e ha subito effetto. È questo che è magnifico del cioccolato. È fantastico, sì. Ne basta decisamente poco ed è un piacere di cui, a cui diciamo personalmente invito di non privarsene, perché appunto è un alimento trasversale, come ha detto lei, piace proprio a tutti. E privarsene troppo può essere una controindicazione, perché poi si ha talmente tanto desiderio che se ne mangia tantissimo. Infatti sento, dottoressa Rossi, amiche che stanno a dieta, anche specialisti che sono intervenuti in trasmissione, che dicono: anche se siete a dieta, concedetevi ogni tanto, anche tutti i giorni, un quadratino di cioccolato. E questo vi gratifica e non vi fa poi arrivare alla boffata, no? Esatto, di cioccolato. È una gratificazione che poi magari ci permette anche di seguire meglio un eventuale regime restrittivo. È una gratificazione a cui devono fare attenzione purtroppo chi tende ad aumentare di peso, chi è obeso e via discorrendo, e anche chi è diabetico per esempio, ma è una gratificazione che ogni tanto ci si può anche concedere in questo periodo di festa. Certo, e poi anche nei giorni a seguire, perché i cocci di cui abbiamo parlato all'inizio restano per qualche giorno in casa, girano per casa, tra poco cercheremo anche di capire come utilizzarli. Quindi, dottoressa Rossi, stiamo sottolineando tante buone ragioni per cedere a questa piacevole tentazione, che in alcuni periodi, devo dire, è stata vista essenzialmente come una trasgressione, come un peccato di gola. In altri invece, l'abbiamo un po' anticipato, ha cambiato completamente veste sino a diventare un alimento con super proprietà. Oggi stiamo un po' cercando di mettere i puntini sulle i, di mettere la palla al centro, e cercheremo anche un po' di evidenziare o sfatare alcuni luoghi comuni, tra cui, dottoressa, quello che dice che il colesterolo non c'è nel cioccolato, e questo ha fatto pensare a molti che, essendo un alimento privo di colesterolo, potesse essere consigliato che invece con il colesterolo è sempre in lotta. Dottoressa, ho bisogno del suo aiuto. Sì, una piccola annotazione su quello che diceva lei un minuto fa, sulle mode alimentari. Questa è un po' colpa anche dei ricercatori. Oggi il cioccolato fa male, ieri faceva male, oggi fa benissimo. L'uovo oggi fa male, domani fa bene. Il vino oggi fa male, domani va bene. Insomma, è colpa anche nostra di mandare messaggi spesso contrastanti. Il colesterolo, dunque, il cioccolato è un alimento molto grasso, il burro di cacao contiene per un 35% acido stearico, un po' di oleico e una discreta quantità di palmitico. Non ha colesterolo dentro perché è un alimento vegetale, il colesterolo si trova negli alimenti animali, nelle carni e via discorrendo, e quindi non ce l'ha. Non esserci non vuol dire che sia una sostanza, un alimento che abbassa il colesterolo, perché quella quota di palmitico per esempio è uno di quegli acidi che lo fa salire il colesterolo. Tra l'altro siccome il burro di cacao è costoso, spesso al burro di cacao viene aggiunto proprio olio di palma, che contiene in particolare gli acidi grassi a catena corta, andiamo sullo specifico, che sono responsabili dell'innalzamento della colesterolemia. Quindi diciamo attenzione a dire che è un prodotto che abbassa il colesterolo, perché non lo abbassa, non lo fa salire di per sé, ma è un prodotto molto grasso, e a questo va fatta attenzione, perché le tante calorie da qualche parte devono arrivare. Certo. Senta, dottoressa, a volte il cioccolato, l'abbiamo detto, anche trasmette allegria, e a volte ci dà quell'allegria proprio per tirarci sul cuore quando magari siamo un po' abbattuti per un dispiacere, per una pena d'amore. E non a caso i fidanzati amano regalarsi cioccolato, questo un senso ce l'avrà. Ma da lì a dire che il cioccolato fa bene al cuore è inteso proprio non come sede delle nostre emozioni, ma come motore della nostra vita, forse anche qui c'è da andare un po' coi piedi di piombo. Perché, dottoressa? Sì, bisogna andare molto con i piedi di piombo. Il cioccolato non fa bene al cuore. Gli studi, i lavori che sono stati, nelle quali si è mostrato un effetto, se vogliamo, migliorativo della circolazione, non sono fatti con il cioccolato, quello che si trova normalmente in commercio, ma sono fatti con delle preparazioni a base di cioccolato. Sono più dei farmaci quelli che sono stati somministrati ai soggetti di studio che cioccolato vero e proprio. Il cioccolato dell'uovo di Pasqua, così come della tavoletta che si compra al supermercato, non ha un effetto cardioprotettivo o che favorisce la circolazione, anzi ha forse qualche connotazione che lo rende sconsigliato a chi ha problemi appunto di circolazione e via discorrendo. Quindi non è un farmaco, non è una panacea, non serve a risolvere problemi cardiaci, circolatori e via discorrendo, anzi, va, per queste ragioni andrebbe usato con moderazione, va consumato per quello che è, cioè un alimento ricco di nutrienti, ricco di calorie e soprattutto un alimento che ci fa stare meglio. Quindi adatto possiamo darlo anche ad esempio ai bambini con la classica fetta di pane per una buona merenda, ad esempio. Non solo, in questa associazione che lei consiglia è un'associazione assolutamente bilanciata dal punto di vista nutrizionale. Il cioccolato da solo ha molti grassi e molti zuccheri e pochi carboidrati complessi. La fetta di pane è 30 grammi di cioccolata, che può essere anche un po' di pezzetti d'uovo che restano, che possono essere utilizzati per la merenda, diventano una merenda bilanciata, perché abbiamo carboidrati complessi che derivano dal pane, che controbilanciano gli zuccheri e il grasso che è presente nel cioccolato. Cioccolato anche per gli sportivi, golosi naturalmente? Sì, cioccolato anche per gli sportivi. Come le dicevo, è un concentrato di energia, è un concentrato notevole di energia, quindi dà parecchio la carica, ha molti zuccheri e quindi dà energia pronta, rapidamente disponibile, quindi sì, sicuramente. Senta dottoressa, oltre al cioccolato da mangiare, le uova regalano ai nostri bambini delle sorprese. Generalmente questi regalini sono costituiti da una pluralità di parti che possono staccarsi e quindi venire facilmente ingerite o inalate dai bambini. Quindi oggi che parliamo di uova di cioccolato e quindi di sorprese, non potevo fare a meno di lanciare una raccomandazione ai genitori in ascolto di tenere sott'occhio i bambini. In linea con noi per aiutare a sottolineare appunto l'importanza di osservare, soprattutto di stare attenti che i giocattoli siano sicuri, il dottor Antonino Reale, responsabile del pronto soccorso ed emergenza del Bambino Gesù di Roma. Dottore, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci incontriamo sempre, noi ci incontriamo a Natale e a Pasqua. Esattamente, io vi ringrazio per questo aiuto che ci date regolarmente per continuare la campagna Giocattoli Sicuri che abbiamo iniziato ogni Natale, riproponiamo proprio per cercare di evitare più guai possibili ai nostri piccoli bambini. Ecco, ormai le uova le abbiamo comperate, alcune ci sono state regalate, le abbiamo rotte, abbiamo appunto i cocci, i bambini giocano con i regalini, delle sorprese, adesso le uova, no, le differenziano maschio e femmine proprio per dare il giocattolino giusto, ma dottore, il rischio c'è, vero? Assolutamente sì, per fortuna abbiamo meno rischi rispetto a Natale, dove i giochi naturalmente sono di più e di tutti i tipi, però senz'altro non dobbiamo abbassare la guardia. La cosa più divertente dell'uovo di Pasqua credo che sia il regalino, alla fine per il bambino potrà mangiare un pezzetto di cioccolata, ma sicuramente il regalo è una cosa divertente. È ovvio che l'attenzione forse a Pasqua è meno che a Natale, perché questi giocattolini che vengono dentro la bustina, che vengono montati, sono spesso dei pupazzetti di piccole parti e possono rappresentare un rischio, come ha detto correttamente lei, soprattutto per ingestione e inalazione. Vi ricordo sempre la regola dei 36 mesi, sotto i 36 mesi l'attenzione deve essere molto maggiore, i giocattoli dovrebbero essere superiori a 31,7 mm, quindi molto grandi, proprio per questo rischio che finiscono nelle vie respiratorie o digestive. Dottore, dato che fa anche lei un pezzo di Pasquetta con noi insieme alla dottoressa Rossi, al latte fondente o con le nocciole? Qual è il suo uovo di Pasqua preferito? Io assolutamente fondente, su questo non c'è dubbio. Comunque deve essere di buona qualità, perché purtroppo sappiamo che le sofisticazioni ormai nella cioccolata sono tantissime. Quindi affidiamoci a prodotti buoni, artigianali o industriali, purché buoni. Dottore, la ringrazio per essere Grazie stato con noi. Grazie per la campagna e buona Pasqua a tutti. Grazie. Buongiorno. Dottoressa Rossi, dicevamo, questi pezzi di cioccolato gireranno per le nostre case ancora per qualche giorno. Lei come pensa di utilizzarli, a parte con abbinandoli al pane come merenda? Perché abbiamo detto che è una merenda per i bambini, ma anche per i grandini, giusto? Qui a questo punto, diciamo, è finito il ruolo di nutrizionista, parla la cuoca, mettiamola così. No, dunque, normalmente il cioccolato che resta, a me piace fonderlo e utilizzarlo in preparazioni diffuse, che possono essere dei budini, le palline di cioccolato, oppure in qualche torta. Per esempio è molto facile, basta sciogliere un po' di cioccolato, mettere un pochino di riso soffiato o di cornflakes per esempio, e vengono delle splendide, messe in frigorifero, vengono delle splendide palline croccanti, deliziose, facili da fare. Facili da fare e mi sembrano anche leggere, ma abbiamo anche un grande esperto che magari si sta scrivendo questa ricetta, che è Silvio Bessone, benvenuto. Grazie Nicoletta e buon cioccolato a tutti. Buon cioccolato a tutti, grande esperto, perché cioccolatiere di fama nazionale, ma devo dire anche internazionale, porta l'arte del cioccolato italiano un po' in tutto il mondo. Silvio Bessone, io so che voi fate fondere il cioccolato con delle tecniche molto difficili e che magari noi a casa non riusciamo neanche a metterlo a bagnomaria, abbiamo sempre premura, ma la dottoressa Rossi ci ha suggerito una ricetta con cui riciclare un po' i fondi di cioccolato. Lei che cosa può aggiungere, che cosa, che tocco ci può dare da maestro? Ma, diciamo che il cioccolato, potrei dare un consiglio di come fare, se si tratta di buon cioccolato, mi raccomando, da recuperare dopo Pasqua. Allora, se avete un buon cioccolato a disposizione, con 100 grammi di cioccolato fondente potete farlo sciogliere in 200 grammi di latte fresco o di latte comunque sia, anche latte alternativo per chi è intollerante al latte, e farlo bollire. 100 grammi di questo cioccolato possono rappresentare una buonissima crema, che può diventare anche un dessert, e sostituendo eventualmente il latte con del succo di frutta, alla pera o all'arancio, fate un'ottima crema senza addensanti, da poter fare dei dessert, cioccolato e pere, o magari con un succo di pesca. Bravo! Era la pesca ripiena. Magari adesso che cominceranno ad esserci frutti freschi, potrete utilizzare magari quella frutta che non viene magari utilizzata completamente in casa, o magari che possa avere anche un difetto di maturazione, e fare un'ottima crema. Si fa un passato, si fa bollire, si aggiunge metà del contenuto di cioccolato. Mi raccomando solo una cosa, possibilmente sia cioccolato artigianale e di ottima qualità. Certo, questo è sicuro, il cioccolato deve essere di ottima qualità. Lei anche ci ha dato delle ottime ricette. La dottoressa Rossi ed io ci metteremo subito al lavoro. Dottoressa, intanto grazie per aver passato un po' di Pasquetta con noi e per queste notizie importanti su questo alimento che comunque ci piace un sacco e quindi a cui cediamo volentieri. Dottoressa Rossi, grazie e buona festa. Grazie a voi e buon proseguimento di Pasquetta. Grazie anche a Silvio Bessone, che speriamo di sentire presto con altre preziose ricette. Grazie a Silvio Bessone, buona giornata e buona festa. Cioccolato, passiamo a quello della nostra gallina. Molto spesso questo alimento è accompagnato da pregiudizi, talvolta sono le vere e proprie leggende metropolitane. Allora oggi vogliamo fare un po' di chiarezza, abbiamo invitato il dottor Andrea Ghiselli, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione. Dottor Ghiselli, buongiorno. Buongiorno. Oggi praticamente passo la Pasquetta con i ricercatori dell'IRRAN. A lei invece però affido non l'uovo di cioccolato, ma l'uovo di gallina. Parliamo di lui. Tante cose si dicono su questo uovo, un alimento ricco in nutriente, altri invece no, un alimento che però non va consumato in eccesso, ha troppo colesterolo, fa male al fegato. Dottore, un'ode all'uovo in questa giornata di Pasquetta. Beh, sa, quello che ha appena detto è in realtà il pregio e il difetto dell'uovo, nel senso che è un alimento molto ricco, e quindi a seconda di come viene usato può andar bene, può andar male. Sì. È sicuramente un alimento ricchissimo di proteine di alto valore biologico, quindi facilmente non solo digeribili ma anche biodisponibili, cioè sono quelle il cui profilo è proprio quello che ci serve per costruire le nostre proteine di cui abbiamo bisogno. Non è molto grasso, ma è un pochino grasso, e contiene del colesterolo nel tuorlo. Quindi ecco per quale motivo... Di lui se ne dicono un po' di tutti i colori. Sì, dipende dalla parte dalla quale lo guardiamo. È un alimento molto importante e quindi dobbiamo starci attenti, anche per il fatto che appunto contiene tanti... grassi. Beh, però, e colesterolo, però è poco calorico. È poco calorico. E poi, dottor Ghiselli, io non so se lei cucina, ma è subito pronto. Cioè, due uova al tegamino, voilà, un secondo assicurato. Esattamente. Sì. Oppure alla coc, ci sono tanti modi per preparare l'uovo. Sicuramente questo è un pregio di questo alimento, la sua versatilità. Ma prima di parlare di questo, io volevo chiederle, dottor Ghiselli, dicevamo, può sostituire un secondo piatto, quindi pesce, la carne o il formaggio, due uova sicuramente apportano tutto quello che è necessario, soprattutto proteine, ma quante possiamo mangiarne alla settimana? Allora, per la sua ricchezza di colesterolo nel tuorlo, anche se ora ultimamente tramite una serie di selezioni genetiche delle galline di mangimistica particolare si è ridotto moltissimo il contenuto di colesterolo nel tuorlo, è bene non eccedere 2-4 uova a settimana. 2-4 uova a settimana che comprendono anche quell'uovo che più o meno troviamo nelle preparazioni alimentari, quindi che è un po' ovunque. Potrebbero essere 2-3 uova. Sì. Quella quantità. Sì, un po' come si fa con i pugni di risotto, no? Uno a testa più uno per la pentola, È più o meno così, 2-3 e più, però se una persona non mangia biscotti, non mangia prodotti da forno, non mangia torte, non mangia... Ma chi è questo qua? Costui esiste, può mangiare fino a 4 uova a settimana senza problemi. Essere e benessere. Veloce, siamo tornati fino a mezzogiorno, passeremo un pezzo di Pasquetta insieme, non sono sola, in linea con me il dottor Ghiselli, con lui stavamo parlando dell'uovo. Dottor Ghiselli, ai bambini non si dà subito l'uovo, ma si dà a qualche mese dallo svezzamento. Si dà a qualche mese dallo svezzamento perché per due motivi principali, primo perché è un po' troppo proteico per il bambino che cresce, mentre un tempo si pensava che le proteine fossero un requisito fondamentale, non dimentichiamoci che parliamo di tempi in cui si faceva la fame e c'era un po' più miseria di oggi. Oggi non è più così, per cui tutte le pappette, le cose, i preparati per i bambini sono molto proteici. Sì. Ma soprattutto si fa perché l'apparato gastrointestinale del bambino che cresce non è ancora perfettamente sviluppato e si potrebbero creare dei problemi di allergia alimentare se si introducesse l'uovo troppo presto. L'uovo ha degli importanti allergeni alimentari. Senta, dottor Ghiselli, prima di andare in cucina, lo acquistiamo e poi lo dobbiamo conservare correttamente a casa. Nei negozi le uova sono vendute nei contenitori e sono conservate a temperatura ambiente, mentre una volta tornati a casa questa regola non vale più, infatti le uova vanno conservate in frigorifero, giusto, sì, dottor Ghiselli? Giustissimo, devono essere conservate in frigorifero. Meglio se non le leviamo proprio dalla confezione, non le manipoliamo, non le tocchiamo troppo, non le laviamo soprattutto che gli facciamo del male, e li teniamo nella parte predisposta per le uova del frigorifero. Che è quella dalla confezione se è possibile. Che è quella in genere in alto. In alto, non a caso, e bisogna naturalmente consumarle entro la data di scadenza. Attenzione al fatto che le uova comunque siano integre, perché la data preferibile di scadenza vale se le uova sono perfettamente conservate e il guscio è integro. Se vediamo che il guscio è un pochino rotto, si buttano. Oppure si tiene conto che la data di scadenza non ne garantisce la freschezza. Dottor Ghiselli, grazie per essere stato con noi. Auguri, buona Pasquetta, buona frittatina nel caso. Grazie. E adesso invece venite con me, perché andiamo a curiosare nella cucina di un amico di Essere Benessere. Facciamo un pezzetto di Pasquetta con Andrea Ribaldone, Executive Chef Italy Tokyo. Benvenuto Andrea. Buongiorno a tutti e buona Pasquetta a tutti quanti. Senti Andrea, che buona Pasquetta a te. Tu stai lavorando, che cosa bolle in pentola lì da te? Allora, dopo la grande mangiata di ieri che un po' tutti abbiamo fatto, oggi siamo magari su dei piatti più leggeri. E noi stiamo preparando una torta pasquarina, però fatta un po' particolare, la stiamo mettendo proprio in forno adesso, un po' particolare perché usiamo le erbe di campo. Usiamo le erbe di campo che a mio parere in questo periodo sono veramente al top, sono buonissime. Quindi tarasacco, comunemente chiamato denti di cane, oppure proprio la piantina del papavero, quello che vedete proprio nei campi quando fate la gita fuori porta, è molto buona se le fate bollire leggermente con un po' di sale. E poi come fare gli spinaci, senza, non è una cosa difficile, e tra l'altro li trovate anche dai vostri verdurieri se siete in città e non avete i bei campi che abbiamo qua noi in Monferrato in questo momento, veramente bellissimi. Quindi potete benissimo farlo anche in città, una leggera bollitura in acqua salata, le scolate, tagliate il tutto, aggiungete della ricotta e con questa farcia riempite la vostra torta pasqualina. Si aggiungono le uova oppure no? Perché la torta pasqualina, io mi ricordo quella che mi faceva la mia mamma, tagliandola, mia mamma è un po' mezza piemontese, mezza ligure, tagliandola c'era l'uovo. Ecco, allora, quello lì è un grande classico e va benissimo, potete mettere anche le uova, ma potete benissimo o mettere le uova nell'impasto se usate una ricotta troppo morbida che rilascia un po' d'acqua. Io vi consiglio infatti, soprattutto per chi abita al sud Italia, di usare una ricotta di tipo romanesco, di pecora, quindi bella asciutta. Altrimenti, se avete una ricotta troppo acquosa, cosa fate? Aggiungete un uovo intero e sbattete tutto insieme, in modo che cuocendo le proteine dell'uovo asciughino la farcia e rimanga bella composta, bella solida. Poi si mette questa bella torta in forno, un'insalatina, siamo dei re. Direi che siamo dei re, mangiamo sano, mangiamo delle cose buone e dopo una giornata intensa come quella di ieri è, diciamo, anche un cibo defaticante, chiamiamolo così. Allora, parlando sempre di uova, cosa vi posso raccontare? Vi do una ricetta un pochettino più tecnica, ma per niente complicata. La potete fare tutti a casa senza problemi. Tra l'altro, io la cosa che vi consiglio sempre, in tanti mi dicono che i bambini non mangiano, non riesco a farlo mangiare, è un problema, tanti genitori mi dicono questo. Allora, fate la cucina insieme ai vostri figli. Non sempre, il sabato e la domenica, i giorni di festa, vi divertite insieme, vedrete che assaggiano tutto ciò che hanno cucinato con voi, perché è obbligatorio, se l'hai fatto lo vuoi anche assaggiare. Quindi quest'uovo leggermente più tecnico, facciamo così, prendiamo le uova di gallina, le mettiamo in acqua fredda, portiamo l'acqua, comprate se non l'avete a casa, che vi serve sempre, un termometro da cucina, non quello per misurare la febbre dei figli, perché dobbiamo avere una possibilità di temperatura superiore ai 60 gradi. Quindi un termometro da cucina, misurate la temperatura dell'acqua e la portate fino a massimo 63 gradi. Se poi togliete dalla fiamma, e il tutto, lasciate le uova dentro quest'acqua che ha un range tra i 55 e i 63 gradi per circa 40 minuti. Quando romperete l'uovo, vi accorgerete come romperlo esattamente come per fare una frittata, vi accorgete che l'uovo si è formato esattamente come l'uovo in camicia, quindi non avete fatto nessuna fatica se non misurare ogni tanto la temperatura e avete un uovo esternamente, come posso dire, formato come se fosse in camicia ed internamente molto morbido. Io lo accompagnerei in questa stagione con una passata di piselli freschi eccezionale e magari qualche chips croccante di prosciutto crudo cotto al forno in modo da dargli una croccantezza che insieme facciamo un grande classico, quindi piselli, uova e prosciutto visto in una maniera un po' diversa. Mi fai già venire l'acquolina in bocca, però sono 40 minuti non bollitura, li dobbiamo tenere nell'acqua per 40 minuti, esatto. Se la temperatura dell'acqua però, dato che spegniamo il fuoco in questi 40 minuti, si abbassa, li possiamo mettere un attimo ancora sulla fiamma? Lo riaccendiamo e riportiamo massimo 63 gradi, non c'è nessun problema, non è difficile perché diciamo che l'acqua ha intorno ai 60 gradi, se voi lasciate un coperchio e togliete dalla fiamma, la mantiene a lungo quella temperatura, quindi non è un grosso problema, non pensate di dover stare lì a controllarlo ogni momento, a guardare l'uovo che cuoce, come si è dice, molto facile, no? Esatto, tra l'altro ti voglio dire anche questo, Nico, lo potete fare, se avete degli ospiti a casa, lo potete fare un giorno prima, mettete le uova poi in acqua fredda e in frigor. All'ultimo momento preparate un pentolino di acqua calda, sempre a temperatura di massimo 60 gradi, rimettete le uova dentro per 5-6 minuti e siete pronti, avete già fatto la passata e la tenete tiepida, avete le chips croccanti di prosciutto e all'ultimo dovete solo impiattare, quindi è anche comodo, perché è un'altra cosa che voglio dire a tutti a casa, quando invitate, soprattutto nelle giornate come oggi, i vostri amici a casa, non dovete solo cucinare, altrimenti non è più gioioso questo invito, vi stufate, vi stancate e la volta dopo non avete più voglia di avere persone in casa, quindi dovete trovare queste ricette che avete preparato prima e sono molto semplici poi da impiattare, gustose, sane, buone, ma molto semplici da preparare per godervi la giornata insieme agli amici. Mi sembra un'ottima idea, perché poi si rimane un po', come si dice, genati, quando il padrone di casa o la padrona di casa sono sempre in cucina, poi tutti vogliono aiutare, invece è bello condividere, no? Invitare persone a pranzo e stare con i propri invitati. Andrea, è tempo anche di asparagi finalmente. Esatto, questa è proprio la stagione delle verdure nuove, delle erbe nuove, quindi gli asparagi che sono anche questi fenomenali in questo periodo, e abbiamo, ne abbiamo poi tante qualità in Italia. Noi in Italia abbiamo una ricchezza di prodotti che pochi paesi hanno al mondo. Quindi troviamo l'asparago classico, quello chiamiamolo napoletano o sardo, quello verde che trovate su tutti i banchi, ma poi c'è un eccezionale asparago violetto dal Benga, tu che sei ligure lo sai bene, che possiamo mangiare anche crudo, tagliato fine in un'insalata, da quella croccantezza e quella nota acida che secondo me è stratosferica, veramente buonissima. E poi gli asparagi bianchi, non dimenticarmo gli asparagi bianchi di Bassano, e ce n'è di vari, in vari territori di asparagi bianchi, anche questi sono buonissimi, qualità veramente eccezionali. A mio parere anche qua con, se volete, con l'uovo, però anche col pomodoro, con una passata fresca di pomodoro, sono veramente buoni. Senti Andrea, mi spieghi un trucchetto per mantenere il colore degli asparagi bello quando li abbiamo verdi, insomma mantenere il colore degli asparagi, perché se le facciamo cuocere tante volte diventano un po' smortini. Allora, la cosa principale innanzitutto bisogna capire, è un po' noioso, però l'asparago va spelato con un pelapatate, togliete la parte esterna più verde, lasciate solo la parte di punta che si chiama proprio turrione, il turrione lo lasciate così com'è, quindi il primo centimetro di asparago, poi per il resto va pelato, altrimenti, e ve ne accorgete spesso a casa, quando li mangiate sono fastidiosi perché avete tutta questa parte verde esterna che rimane comunque fibrosa, non è piacevole da mangiare. Invece così cosa ottenete? Una parte interna bianca, leggermente verde, molto tenera. A quel punto acqua bollente e sale, deve proprio bollire l'acqua. Li mettete in acqua, li calate in acqua bollente e li cuocete poco, altrimenti diventano troppo molli, troppo spappolati, come dicevamo prima, invece li vogliamo croccanti. Quando raggiungete il punto di cottura che più vi piace, però io ve lo consiglio sempre croccante, avete già preparato acqua e ghiaccio e immediatamente fermate la cottura. In quel modo manterranno colore, croccantezza, gusto e qualità organolettiche. Quindi ci vuole proprio un tuffo nell'acqua gelata. Sì, se, appena voi raggiungete il punto di cottura, subito acqua gelata. Si chiama proprio in gergo tecnico dei cuochi sbianchire le verdure, perché vale per tutte le verdure. Andrea, un saluto, grazie per tutti questi consigli. Buona Pasquetta anche a te. Grazie a voi di sopportarmi. No, ci sentiamo presto. Essere e benessere. Eccoci tornati insieme. Pasquetta è per tradizione una giornata da trascorrere fuori porta. E quando la primavera decollerà non mancheranno certo le occasioni per stare un po' all'aria aperta e, perché no, cancellare un po' il grigiore dell'inverno sulla pelle. In linea con noi il professor Giuseppe Monfrecola, ordinario di dermatologia all'Università Federico II di Napoli. Buongiorno professore e auguri. Buongiorno a lei, dottoressa. Grazie anche a lei. Il sole ci piace, ci fa bene, soprattutto lo aspettiamo da tanto. Iniziamo da qui allora, professore. Sì, direi che effettivamente noi abbiamo, come dire, un po' un'idea forse estremizzata dell'azione dei raggi del sole. Il sole non è un killer, fa anche bene, sappiamo tutti il tono dell'umore, vabbè, questo è ben noto, ma per esempio la sintesi di vitamina D, e sappiamo tutti come la vitamina D nei recenti report scientifici venga indicata come una vitamina antitumorale, non soltanto a livello cutaneo ma anche a livello di organi interni. E poi il sole sulla pelle produce dei peptidi che si chiamano peptidi antimicrobici, sono delle sostanze capaci di bloccare alcuni tipi di infezione. E poi ancora il sole è in grado di modulare il sistema immunitario, quindi queste sono alcune degli aspetti che conosciamo, chissà quanti ancora non ne conosciamo. Certo, poi comportamenti un po' sopra le righe, ovviamente gli eccessi possono determinare dei problemi. Professore, noi iniziamo proprio in questa stagione a prendere di nuovo confidenza con il sole, abbiamo proprio anche il piacere di sentire il calore dei raggi sulla pelle e, diciamo la verità, vorremmo anche iniziare a guadagnare un po' di colorito che fa tanto inverno. Insomma, quando la pelle diventa più ambrata abbiamo tutti un'espressione che fa più salute, più bellezza. Sì, questo è vero, anche se dobbiamo considerare due punti importanti. Uno, la nostra pelle è pallida, non è ancora pronta per esporsi in maniera continuativa al sole, in maniera ottimale direi al sole. La seconda cosa è che, vede, noi abbiamo un misuratore di ultravioletto qui sul tetto della clinica dermatologica dell'Università di Napoli che ci fa una scansione da anni dell'ultravioletto che arriva sulla nostra testa. Ebbene, posso dirle con sicurezza che il picco, il massimo di ultravioletto che riceviamo sulla città di Napoli almeno, avviene tra nei mesi di aprile-maggio più che nei mesi di luglio-agosto, quindi questo è un periodo di quando c'è una bella giornata in cui il sole picchia e picchia duro. E allora certamente il gusto, la voglia di prendere un po' di sole, di stare all'aperto, di passare una bella giornata fuori, per esempio, è certamente una qualcosa a cui non sottrarsi. Tuttavia bisogna considerare che la pelle deve mettere in opera dei meccanismi di protezione naturale. Per far questo ha bisogno però di tempo. E allora noi però il tempo non glielo diamo, perché vogliamo il tutto e subito, quindi i comportamenti sono innaturali, non è il sole ad essere innaturale. Io insisto molto su questo concetto. Sento dire il sole è cattivo, ma il sole non è cattivo affatto. Siamo noi che ci comportiamo in maniera un po' innaturale. Se è un po' come una torta. Se mangiamo una torta intera, molto probabilmente faremo un'indigestione. Se una fetta di torta fa buon sangue, come si dice. Questo suo esempio è perfetto, calza a pennello su quello che è il concetto. Poco al giorno per le pelli normocostituite può essere assolutamente ben tollerato, tutto insieme di colpo no, ma voglio dire, è la ricetta della nonna per dirla tutta. Insomma, sì, è vero, se ci esponessimo gradualmente noi, almeno la gran parte di noi, non avrebbe particolari problemi, ma il mordi e fuggi dettato da problemi di ordine, voglio dire, di mode, di fatti sociali, lavorare un'intera settimana e concederci la vacanza del weekend, purtroppo poi può comportare dei problemi, però noi abbiamo come fare, possiamo comunque goderci la giornata al mare tutta di colpo, e questo lo possiamo fare preparando la pelle al sole. Vediamo, sì, in sintesi molto rapidamente, che cosa si può fare. Si può innanzitutto alimentarsi bene. Ecco, noi sentiamo sempre parlare di integratori alimentari, e come dice la parola, sono integratori, cioè vanno assunti se non c'è una corretta alimentazione, perché per il resto noi li troviamo tranquillamente in tanti cibi, soprattutto verdure e frutta. Quindi una buona alimentazione prepara la nostra pelle, prima cosa. Seconda cosa, evitiamo alcune cose, mi riferisco soprattutto alle signore. Se si sa di andare il sabato o la domenica al sole, per piacere, evitiamo nei giorni precedenti dei peeling, per esempio, l'uso di scrub particolarmente energici, perché questo che cosa fa? Riduce lo spessore dello strato corneo, che è uno degli strati barriera nei confronti anche dei raggi solari, non soltanto di altre cose. E poi ancora, ecco, entra in gioco il fatto che bisogna fare attenzione a non mettere cosmetici profumati sulla pelle prima di esporsi. Questo penso che le signore tutti quanti lo sapranno, ma anche gli uomini che mettono le loro belle lozioni così profumate alle volte. E infine, ognuno di noi, tantissime persone, prendono dei farmaci. Per piacere, chiedere al medico curante, mi dica, questo farmaco può sensibilizzare la mia pelle al sole? Se ho una distorsione, non devo applicare i prodotti antinfiammatori in gel che si usano, perché quello potrebbe determinarmi dei problemi. Quindi farmaci per uso topico, farmaci per uso sistemico, attenzione, chiedere al medico curante se c'è pericolo di fotosensibilizzazione. E poi veniamo, professor Monfrecola, alla protezione, alla crema, al prodotto che mettiamo sulla nostra pelle. Prima di capire quale scegliere, professore, è sempre un po', ci domandiamo sempre quanta crema sia necessario mettere. Ne mettiamo poca, è meglio metterne tanta subito e non pensarci più, o rinnovare l'applicazione. Ma qual è la giusta dose di crema da spalmare sul viso? E ricordiamoci anche quelle parti che magari a cui non pensiamo, perché tutti noi vogliamo essere abbronzati davanti, non ci ricordiamo poi che abbiamo anche il polpaccio, abbiamo anche la parte, no, posteriore della gamba, e lì poi si prendono i piedi, i bordi delle orecchie. Professor Monfrecola. Lei ha messo il dito nella piaga, perché il vero problema, sa qual è? Che noi abbiamo dei filtri studiati oramai molto bene per la cultura, diciamo, della scienza dermatologica e quella cosmetologica, che vanno a braccetto per produrre dei prodotti quanto più adatti possibili. Il problema è che produciamo, mi passi il termine, una splendida automobile capace di correre benissimo, però la usiamo male. E molto spesso è questo un vero problema, perché abbiamo una finta idea di sicurezza, che è peggio che essere prudenti e non avere sicurezza, se mi passa il termine. Allora, il punto è come applicarlo. La quantità, beh, la quantità sa, non è propriamente misurabile, però attenzione, quello che è bene sapere è che in laboratorio, quando decidiamo, stabiliamo qual è il fattore di protezione di un filtro, noi usiamo una quantità ben fissa, che è di 2 mg per centimetro quadrato. In condizioni naturali, gli studi che sono stati fatti indicano che ne mettiamo, nella migliore delle ipotesi, soltanto la metà. Questo significa dimezzare il fattore di protezione. Allora, la regola deve essere: utilizziamo il filtro in maniera tale da poterlo mettere omogeneamente su tutte le superfici esposte, perché quello che accade è che ne mettiamo quantità enormi sul viso, no? Il solito naso ricoperto di bianco, di qualcosa che non viene spalmato nemmeno, e poi, come giustamente diceva lei, zone completamente prive di solare. Questo è tanto più valido per i bambini, che naturalmente si muovono di più, si tuffano in acqua, hanno un'attività motoria notevole, vengono manipolati dalle mamme che vanno lì con l'asciugamane a togliere l'acqua di dosso, eccetera, e questo significa portare via il filtro. Allora, per piacere, mettiamo il filtro massaggiandolo bene, applichiamolo su tutte le superfici esposte e possibilmente riapplichiamolo. Possiamo utilizzare anche i filtri dell'anno precedente, sempre che siano stati conservati bene, nel senso che il filtro deve essere tenuto chiuso, deve essere tenuto in condizioni di temperatura abbastanza costanti, quindi senza che sia surriscaldato, altrimenti se ne è rimasto pochino e sappiamo di non averlo conservato bene, beh, insomma, vale la pena poi spendere qualche soldino e comprarlo fresco di annata, diciamo. Ecco. Se mi venisse l'idea di farmi una lampada artificiale proprio per togliere quel grigio della città, dell'inverno, e non andare proprio bianchiccia in spiaggia, posso farla o rischio? Allora, guardi, qui come sempre è la dose che fa il veleno, come dicevano gli antichi, quindi direi che no, se uno fa una lampada giusto perché ha una pelle normocostituita, quindi non è rosso di capelli, non ha i felidi, eccetera, giusto prima di andare al mare, guardi, direi che è un peccato comunque, ma un peccato veniale, anche se noi dermatologi diciamo sempre, per piacere, cercate di evitarlo. Ma comunque sia, se questo serve per darti una certa tonalità, quindi, come dire, un camouflage, come vogliamo dirlo, insomma, una pelle non propriamente pallida perché ci sentiamo a disagio, passi pure. Attenzione però, questa, diciamo, tipo di abbronzatura artificiale non fornisce fotoprotezione, quindi questo non significa che perché ho quella tonalità io sono protetto dall'azione lesiva dei raggi ultravioletti. Questo è un errore, perché quell'abbronzatura non è la stessa dell'abbronzatura che riceviamo da raggi che contengono tutto lo spettro solare. Quindi, se questo può significare sentirsi un pochino più a proprio agio per un fatto estetico, anche se, diciamo, torto collo, direi può essere anche consentito in qualcuno che non sia propriamente molto molto appunto soggetto alla fotosensibilizzazione. Se lo si fa, però, attenzione, comunque vanno usati i prodotti solari, comunque bisogna essere prudenti, perché questa tintarella artificiale non fornisce fotoprotezione. Buona giornata a lei, professor Monfrecole, ancora tanti auguri. E noi invece ci sentiamo domani, appuntamento alle 11, ma un attimo, prima di salutarvi, un piccolo compito. Se oggi passate davanti a uno specchio, davanti a una vetrina, davanti ad una finestra, ecco, provate a guardarvi con l'angolo dell'occhio. Cercate di capire come tenete le spalle, la pancia, insomma, che figura viene riflessa. Parliamo domani di postura, io vi aspetto con la testa sul collo. Ancora auguri e buona Pasquetta a tutti da Nicoletta. Essere e benessere.